Credo che se lo vorremo davvero e tutti insieme, come direbbe pacatamente, serenamente il principale esponente dello schieramento a me avverso, se può fa, ce la possiamo fare. È con questo auspicio, anzi con questa certezza, che chiedo la vostra fiducia.